saluto da parte di Max Macchia per quanto riguarda un altro 451 frammenti sonori, ben ritrovati, insomma, ovunque, in qualsiasi maniera ci state, mi state ascoltando, ci state ovviamente per quanto riguarda 451 frammenti sonori. E questa sera appunto in altri momenti, ma prendiamo insomma il tempo della diretta, tratteremo quello che è un tema poi tra l'altro che tante volte attraversa 451 frammenti sonori, già insomma nella scorsa trasmissione della diretta, ecco, così facciamo un po' di chiarezza. Ho trattato quello che era il noise, un certo tipo di noise, ovviamente la cosa non può che essere molto molto larga, un'attitudine poi tra l'altro che nasce appunto come tale, un'attitudine nata dal contrasto più che altro dei linguaggi attraversavano, o per meglio dire forse l'attraversamento era dall'altra parte, cioè chi contrastava linguaggi standard consolidati, dati dai commerci insomma musicali, e quindi come forma provocatoria un'attitudine attraversante quelle musiche. Perché dico questo? Perché l'attraversamento anche della, ovviamente in termini molto popular, in termini molto così di quello che può essere considerato in maniera larghissima, ecco, il rock, il pop, ecco, perché poi spesso si sono mischiate le cose, visto che poi fino a un certo periodo si parlava ancora di musica colta, quindi per molti aspetti insomma il rock poi era la popular music, no? Di molti ascoltatori, anche perché no, andando fuori da quelle che erano così decenni e decenni di fruizione musicale, no? Il rock ovviamente rompe questo, e quindi tanto rivoluzionario in questo senso, insomma, in termini appunto di rottura rispetto a, sia al mondo del giovanile che nasceva appunto con il rock and roll, sia appunto anche il portare musiche che erano fuori appunto da un discorso così con la M maiuscola, legate al blues, quindi alle musiche insomma che neglette, ecco, potremmo dire per tanti aspetti, fino appunto agli anni 50 del passato, dello scorso secolo, ma tant'è che poi insomma appunto intorno agli anni 70 è diventata anche materia pop, e tra l'altro anche molti hanno lavorato proprio sulla pop, la popular music, anche in termini sperimentali, e perché no, anche mischiando quello che è il rumore, e quindi arriviamo già ai nostri, perlomeno ai primi insomma, che apriranno questo 451 Free Noise Collide, frammenti seriali ovviamente, perché ovviamente poi lo capirete anche nel corso delle prossime trasmissioni, perché tratterò insomma per alcune puntate, non vi preoccupate, non tantissime, per chi non ama insomma il noise, non è una musica insomma che arriva direttamente, però come accennavo prima, se pensiamo al pop popular music, pensiamo ad esempio che ne so, subito mi viene in mente il popular group Aria, che si considerava così e che per tanti aspetti ha utilizzato anche il suono rumore, se pensiamo soprattutto a certe performance dal vivo, a certe costruzioni improvvisative, impro noise potremmo dire, ecco, li trovate più che su disco, in studio, più che altro insomma nelle performance dal vivo, che tra l'altro sono anche attestate da qualche anno insomma con uscite discografiche, ma perché no, appunto, potremmo pensare attraversamenti che hanno fatto lo stesso John Cage e con non proprio con il linguaggio pop, ma con l'atteggiamento pop, ma quell'atteggiamento pop appunto che veniva fuori da intanto in Italia assolutamente da quello che era il movimento sia con la M maiuscola che con la M minuscola, perché ancora insomma, come dire, ha modo di decodificare insomma queste maiuscole, questi minuscoli, ma soprattutto appunto da quella ora, perdonatemi il gioco di parole, questo bisticcio di parole, e da quell'area appunto che si era fatta insomma antagonista, si era fatta anche creativa, si era fatta nei termini insomma di costruzione di un altrove insomma politico, sociale, ideativo. E quindi in questo senso Cage attraverserà anche la Cramps Record, per dirne una, ma sarà anche qua tra l'altro a Bologna con il treno di Cage, più pop e popular del treno come mezzo e ma anche tra l'altro parlando di altri che non erano distanti dalla terra natia di Cage, Nihilism Spaz Band, succedeva anche che certe forme di rock iniziavano a prendere derive nel senso molto molto buono, derivanti sia da qualcuno che giovani freak che frequentavano i corsi di Carlisle Stockhausen, altri che appunto avevano avuto modo di ascoltare Cage per quanto riguarda gli Stati Uniti, e quindi porsi in maniera differente anche attraverso magari uno strano veicolo per antonomasia, strano quello del veicolo della psichedelia, della psichedelia rock, quindi di un suono che si fa sperimentale proprio perché ricerca un'alterità di fatto, seppure insomma anche lì poi ci saranno varie attitudini, ma quella che ci interessa insomma è quella di Nihilist Spaz Band, che ritroviamo tra l'altro insieme ai Reynolds, quindi con abbiamo chiuso la scorsa trasmissione di 451 frammenti sonori. Beh, riapriamo, ne apriamo un'altra appunto legata alla Free Noise. Nihilism Spaz Band nasce come band, potremmo dire, con strumentazione piuttosto classica, ma immediatamente, già con No Record nel 1968, inseriscono veramente tanto free, inizialmente così definibile come free jazz, ma è una free form, poi in realtà insomma una dilatazione veramente delle possibilità date dalle psichedelie che appunto alla fine degli anni 60 diventavano anche qualcosa di appunto di assolutamente spaziale, nel senso vero e multiplo insomma dello spazio, sia come spazio sonoro preso in termini appunto di ricerca, e sia uno spazio ricercato sia all'interno che all'esterno, quindi tutto quello che insomma è anche una sorta di follia misticheggiante, perché no, poi qualcuno insomma ha tolto la follia e insomma si è tutto molto edulcorato, ma quella è un'altra storia insomma legata agli anni 70 e a quella poi che sarà insomma la culla soprattutto per quanto riguarda la California del nostro modo di vivere quotidianamente, ovvero legato ai computer, comunque California insomma ex psichedelica. I Nihilism Spaz Band poi in realtà non vengono da lì, ma hanno così le corde anche legate a quello che sta succedendo appunto in quel periodo, insomma, in California, in termini di psichedelie, ma anche appunto in termini di musiche impro, di free jazz che si è trasferito in Europa e che quindi sta diventando anche un'altra cosa. Poi, insomma, è veramente la possibilità data di utilizzare strumentazione appunto classica come quella di Spaz Band in maniera assolutamente diversa, e che sentiremo appunto adesso, e addirittura appunto ripresa da anche giovani formazioni veramente molto attributati in Spaz Band da parte di vari Noiser nel corso dei vari decenni, appunto iniziato alla fine degli anni 60, quindi potete immaginare. E in questo caso appunto abbiamo i Reynolds, insomma i messicani, argentini, pardon, cattivissimi Noiser, che tra l'altro si divertono ulteriormente con questo no remix da No Borders to No Borders, la grande appunto formazione NISM Spaz Band, e i giovani, più giovani, ecco, mettiamola così, Reynolds. Yeah! Beh, non si può di certo dire che Nihilist Spaz Band, in questo caso coadiuvati da Reynolds, la maniera a dire in termini di cacofonie e di quasi orge sonore che riescono a tirare su. Tra l'altro alcuni dei loro componenti non ci sono più, però Nihilist Spaz Band per il momento, insomma, è ancora in piedi fino a qualche anno fa, insomma, sono riusciti a fare appunto anche qualche live ancora così incendiario, sì, con questa capacità di veramente di liberare la composizione in termini improvvisativi, dare al rumore non soltanto, come accennavo prima, quell'atteggiamento che sicuramente, insomma, è stato fondamentale per la nascita del noise, poi come linguaggio musicale, ovvero quello di contrasto, quello di opposizione, quella di provocazione, perché no, ma anche appunto di dare poi e di ibridare, un'ibridazione che comunque non ha quel carattere, insomma, postmoderno di molte ibridazioni della pastiche, ma ha qualcosa invece dell'irruento, prendere il toro per le corna, ecco, in un certo qual modo, una sorta di corrida sonora noise, potremmo considerarla, insomma, tale, e per tanti aspetti, insomma, se non fosse, insomma, un'immagine piuttosto vetusta, oppure una sorta di combattimento, insomma, marziano, fuori appunto dalle orbite terrestri, combattimento ovviamente a botte, insomma, di suono, ecco, di suono noise, di questo appunto che si libra e libera appunto. Tra l'altro No Borders con questo No Remix giocava anche in maniera ironica, quindi anche in questo senso qua c'è quella componente che dell'ironia fa una sorta anche di arma, di arma anche a doppio taglio, perché no, perché ogni tanto, insomma, fa male anche a Nihilist Spaz Band, ma comunque, insomma, giocando sulle provenienze di Reynolds, quindi inserendo nel titolo di No Remix, che già di per sé, insomma, è abbastanza, insomma, ironica come titolo, inserisce anche No Argentina e No Canada, così, insomma, abbiamo svelato anche da dove vengono appunto Nihilist Spaz Band. Un altro grosso personaggio in termini di quello che è stato una dialettica anche per tanti versi forsennata, che ci porta fino ai nostri giorni, se pensiamo a Fire, magari avremo modo anche di metterli, insomma, oppure certi Territor Band di Ken Vandermark. Alan Silva è sicuramente uno dei personaggi di riferimento, con la sua Celestial Communication, andando a prenderlo da Season, da disco storico, dove c'era anche un giovane Michel Portal, che all'epoca veramente furoreggiava in termini anche lui di scavallamenti tra free jazz, impro e appunto poi cavalcate noise. Appunto, andiamocelo ad ascoltare, questo progetto incredibile, proprio una commistione, una dialettica feroce di Celestial Communication Orchestra, tra composizione libera e noise, che si libera veramente con grande, notevolissima, grandissima potenza. We'll be right back. furia iconoclasta, quella di Celestial Communication Orchestra, ma anche catartica per molti aspetti, bisogna insomma per così fruire di un suono così così terrificante, ecco, veramente abbandonarsi a questo flusso, ma anche farsi proprio trascinare in maniera violenta da quello che è una musica decisamente violenta, ma che ha veramente una sorta di, anche di illuminazione, e il noise poi ha questo carattere insomma tra il terrestre e l'extraterrestre quantomeno, e proprio per questa caratteristica del sì, del farsi altro, dello spingersi oltre, oltre non soltanto appunto come dicevo all'inizio della trasmissione, oltre gli standard, ma oltre anche a quello così che è lo ludibile, a quello che sia è considerato udibile e sia percepito, bisogna insomma quantomeno spostare insomma l'orecchio musicale su un binario quantomeno parallelo, ecco, per recepire molta musica, buona parte insomma della musica noise. Se poi pensiamo insomma che per tanti versi un pezzo come Eros di Bowie, di Eno, è costruito su un suono poi noise, beh allora poi magari cerchiamo intanto di come dire spostare di fatto e anche di trovare quell'attraversamento che, di cui parlavo prima e accennavo insomma rispetto al pop, qualcuno potrebbe dire insomma e che siamo ben distanti da quello, ma io prima citavo anche Michel Portal, che da furioso, furiosissimo, e anche come dire, anche lui un musicista che andava oltre, tant'è che insomma i primissimi lavori sono veramente eccezionali, quasi a creare un suono astratto per quanto insomma non definibile, poi diventerà anche un jazzista di una certa caratura anche pop, insomma se e mi fate passare la cosa, e spero insomma abbiate capito che non ha un'accezione negativa, seppure insomma nel corso degli anni insomma è diventato un genere a sé stante, parliamo di attitudini, e lo facciamo anche capendo, forse cercando di capire insomma qual è un'attitudine che sembrerebbe opposta, magari in alcuni casi lo è, con Celestial Communication Orchestra si deve andare oltre insomma, decisamente va oltre e l'ascolto deve andare oltre, quindi non si può di certo insomma parlare di atteggiamento popular, ecco, in questo senso, e seppur insomma ha quel senso di liberazione che proveniva anche dalle grandi orchestre collettive, e quindi anche lì un discorso di liberazione legato o di emancipazione non soltanto musicale ma anche linguistica e poi politica, insomma le grandi orchestre, i grandi collettivi musicali dell'impro ci portano anche a questo legame diretto, quasi indissolubile per tanti aspetti, detto tra l'altro da uno insomma di cui ci si poteva fidare, ovvero Steve Lacy, detto sottoscritto insomma bel po' di anni fa, quando molto insomma imberbe andai appunto a trovare questo gigante appunto del jazz, ma delle musiche insomma di ricerca in generale, e ricordiamolo soltanto insomma come collaboratore anche per quanto riguarda il noise di musica elettronica viva, proprio in quella frangente, in quel di Ferrara appunto vidi e sentì appunto Steve Lacy insieme insomma agli altri eccezionali, veramente eccezionali e straordinari musicisti, oltre che insomma ideatori di musiche creative. Beh, sicuramente insomma, visto che ho citato anche Mev, giracchiava non contigui come frequentazioni musicali, ma l'area era quella di Machine Gun, storico disco di un modo insomma di intendere il free più generale, quindi il free form e anche il noise, visto che insomma da lì partiranno schiere insomma di jazzisti o di improvvisatori anche elettronici, perché no, che si diedero sempre più al noise fino ad arrivare ai nostri giorni. In effetti prendo un po' da Machine Gun, ma con un'edizione insomma uscita intorno al 2018, se dovrebbe essere 2018, e con vari take appunto di Machine Gun, e quindi nel disco originale non c'era questo Responsible. Ce ne andiamo appunto ad ascoltare con anche qua personaggi incredibili e musiche forse ancora di più che incredibili. Peter Bratzman Octet, appunto dal suo celeberrimo Machine Gun, ma in questo caso con un alternative take che appunto si chiama Responsible. Beh, come si possa anche swingare con un approccio dirompente come quello di Broxman al sax, ma tutto l'ottetto di Machine Gun è spaventoso. E per tributare insomma gli ultimi secondi, ma poi insomma un modo di continuare ad ascoltarla appunto nella seconda parte, nella seconda ora di questo 451 Free Noise, beh, Peter Kowald, che apparteneva insomma al mucchio selvaggio, ecco, di Broxman, in questo caso però è con Globe Unity e questi maniaci, beh, in effetti insomma maniacali sicuramente, come approccio insomma alle musiche, anche quelle libere, ovviamente l'improvvisazione libera sotto tutti gli aspetti. Vi rimando quindi al prossimo insomma 451 frammenti sonori, alla prossima ora di queste liberazioni, o perlomeno insomma tentativi, ecco, perlomeno emancipativi, ecco, fatemelo passare in questo senso. Per il momento ciao e Globe Unity Orchestra.